Capitolo 25. Venezia, 2 gennaio 1548. Al tramonto, in un salone di casa Mickets. Beatrice, ora in piedi di fronte a me, silenziosa. La sua sagoma si staglia contro una finestra che dà a ponente. Controluce, i suoi tratti ora sono più soffusi e confusi. Seduto su un'ottomana, bevo vino greco. Lo chiamano rezzina, vino aromatico, alla resina di pino marittimo. Convocato appena un'ora fa, un messaggio consegnato da un ragazzino. Ho pensato ci fossero novità, ma non c'è Joao, e nemmeno suo fratello, né Duarte Gomez, nessuno. Anche la servitù si è dileguata dopo il mio arrivo. Varcato il portone, due passi oltre la soglia. Beatrice, sorridente. Rumori attutiti, voci lontanissime, mentre bevo questo vino di cui Perna non mi ha mai parlato, tra tappeti, dipinti, oggetti e colori mai visti, neppure ad Anversa. Una quiete inesprimibile nei vicoli e nelle catacombe in cui mi muovo ogni giorno e ogni notte da sempre. Una quiete che mi porta oltre questo inverno, oltre tutti gli inverni. Non ciò che devo fare, ma ciò che potrebbe essere. Con questa donna, diversa da ogni donna che ho conosciuto. Il suo fiammingo che nessun fiammingo saprebbe cantare, libero d'ogni asperità, fatto di sibili, lunghe vocali e fonemi per me inauditi. Echi di diverse lingue nordiche e romanze, portati ora dal grecale e ora dal libeccio, giunti da levante e da ponente, per risuonarmi lungo la spina dorsale. Forse ogni giorno tutti gli uomini e le donne, ai quattro angoli del continente, moduleranno queste note, quieta cantilena paneuropea, polifonica, ricca di mille varianti vocali. Il suo sorriso. Sola, sola qui con me, la regina madre della dinastia dei Mickets, che tratta con aristocratici e mercanti, protegge gli artisti e gli studiosi. Una regina in una città di lenoni e cortigiane. I poeti di cui è mecenate le dedicano le loro opere. Sfoglio il libro di un certo Ortensio Lando, alla molto illustre e tonorandissima Beatriz de Luna. La sua risata, non imbarazzo, ma divertita commiserazione. Mi chiede del caratello, della sua gestione, le ragazze. Si siede di fianco a me. Questa donna che non è ansiosa di conoscere ciò che sono stato, sapere quali e quanti fiumi di sangue ho guardato. Questa donna a cui non importa dei miei tanti nomi. Questa donna curiosa di me, adesso, di me ora. Questa donna che ora mi parla della mia umanità, che dice di sentirsi sfidata da me, di poter avvertire la mia umanità sotto la corazza che indosso da troppo tempo, sotto la materia refrattaria in cui ho trasformato la mia pelle per non essere ferito ancora. Un altro sorso di vino. Questa donna che mi vuole. Beatrice, ciò che potrebbe essere, ora.